Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ultima puntata stagionale con il mondo della scuola, stiamo per chiudere i battenti anche di quest'anno scolastico, lo hanno già fatto in molti nei giorni scorsi, anche se periodo e sono settimane di esami, almeno per alcuni livelli di studio, come il caso ad esempio di alcune studentesse delle classi terza e quarta dei corsi di scienze sociali e corso di scienze umane del liceo Duca degli Abruzzi, accompagnate oggi dalla professoressa Maria Luisa Marconato, che ringraziamo, le ha accompagnate. Con loro racconteremo appunto alcune attività svolte durante l'anno, non solo attività curricolari, come si dice all'interno delle classi, ma anche al di fuori, e con loro faremo un po' un bilancio dell'anno, augurando fin d'ora a tutte loro in bocca al lupo per gli esami che stanno sostenendo in questi giorni. Ne aspettiamo due per ogni blocco della trasmissione. Allora partiamo da Margherita, benvenuta. Grazie Margherita per la disponibilità e per raccontarci la tua, ma non solo tua personale, anche insieme ad altre, ad altre compagne, perché siete, se non sbaglio, quasi tutte femmine, sì, giusto? Siamo tutte femmine. Tutte, senza quasi. Un'esperienza di volontariato. Sì. Di cosa si è trattato? Allora, quest'anno delle nostre compagne hanno partecipato a del volontariato con dei bambini al dopo scuola e con degli anziani invece in casa di riposo Zanivari. Queste mie compagne avevano già provato a fare volontariato 2 anni prima. Quindi in prima, in classe prima, giusto? Siete in terza. In seconda. Hanno fatto sia la seconda che la terza, perché le attirava l'idea di fare un progetto formativo. E loro hanno iniziato e le ha attirate soprattutto l'idea di aiutare i nonni, quindi gli è piaciuta di più l'esperienza alla casa Zanivari. E perché si sono rese conto che... Che cosa hanno fatto, giusto per capire? Cioè, in cosa è consistita l'attività? Li hanno aiutati giocando ad esempio facendo il bingo, La tombola, come si chiamava una volta, sì. O comunque in attività pomeridiane, aiutandoli... Facendoli passare il tempo, diciamo, anche i pomeriggi, facendo laboratori. Questo quante volte, cioè con quale frequenza? Una volta alla settimana andavano in questa casa di riposo dove appunto aiutavano i nonni. Ci andavano da soli o accompagnati da... No, ci andavano loro, il pomeriggio si organizzavano e andavano, finita la scuola alle 2 circa, andavano in questa... casa di riposo. E c'è stato qualcuno che li ha introdotti, cioè li ha preparati su che cosa fare, su come approcciarsi a queste persone? In seconda superiore hanno seguito un corso di formazione al volontariato, ma la cosa era finita là. Poi in terza, all'inizio dell'anno scolastico, la nostra professoressa di scienze umane ci ha proposto questo progetto a cui alcune di noi hanno aderito, quindi è da lì che hanno iniziato la loro avventura. Ecco, che continuerà anche l'anno prossimo? Sì, sicuramente. Bene, allora, una bella esperienza. Quante persone alla fine hanno partecipato? Una decina hanno partecipato al volontariato e poi a maggio abbiamo dedicato una giornata a fare delle interviste a dei nonni che erano in quella casa di riposo e un'altra giornata di maggio siamo andate tutte noi in casa di riposo a dedicare a questi nonni le poesie che avevamo scritto in loro onore e dedicandoli anche una festa. Una festa con loro. Sì, bene, allora avete anche creato un po' di amicizia, immagino, andando a trovarli ogni settimana. E questo è un progetto, insomma, studentesse che fanno anche le volontarie al di fuori dell'orario scolastico, senza prendere voti, senza prendere nulla. Maddalena, che invece è alla mia destra, stessa classe, giusto? Sì, esatto. La terza, CU. Tu ci parli del progetto Pace. Sì. Allora, è stata un'attività interessante di quest'anno, siamo andati l'8 maggio a Padova, al Palageux, è stato un incontro tra diverse scuole di tutta l'Italia, con anche la partecipazione di alcune scuole dalla Macedonia e dall'Ungheria. Per partecipare al progetto Pace abbiamo creato una coreografia che ci ha unito molto come classe e anche grazie a questa siamo arrivati terzi. Ah, c'era un concorso? Sì, sì, era una gara. Oltre al meeting, il progetto Pace ha proposto anche un viaggio umanitario e con alcune delle due nostre compagne hanno partecipato. Il viaggio umanitario è un'attività che ho organizzato appunto dal progetto Pace ed è nata in occasione della guerra in Jugoslavia. Per alcune settimane durante l'intervallo a scuola abbiamo raccolto dei fondi vendendo dei dolci che poi abbiamo consegnato a queste due nostre compagne di classe che hanno distribuito durante il viaggio alle comunità bisognose. Mm-hmm. Quindi due di voi hanno partecipato a questo viaggio? Sì, esatto. Mm-hmm. E destinazione Balcani? L'Europa del Nord-Est, diciamo. Ok, quindi non proprio Balcani, ma... No, su Macedonia, Ungheria. Ungheria, ok, Europa orientale. Tu hai avuto una parte diretta nel progetto? Ah, io ho aiutato per la raccolta fondi per il viaggio e Adesso questo progetto si è concluso, sì, pensate per l'anno prossimo a qualcos'altro? Sì, no, sempre il viaggio umanitario comunque, cioè si ripropone ogni anno e piacerebbe partecipare anche a me. Magari, andare in viaggio, sì. Questa volta, ecco, va bene, allora ti auguriamo di poterci andare. Intanto noi vi ringraziamo, vi accomodate, adesso c'è il cambio della guardia, un po' di musica, un po' di pausa e poi torniamo. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Oggi tutto va così, siamo in una slot machine, dove il caso sempre a vincere. Puoi far pace con gli dèi, ma ci riesci tu coi tuoi, dimmi un po' a farti comprendere. E ti parlo come amico, perché so che sai che dico, siamo sulla stessa strada. Che anche se non ti conosco, so che sei un tipo a posto e spero che tu ovunque vada cammini nel sole, walking away with me. Bruci le suole anche se non c'è direzione, ma profumo di viole c'è. Tu cammina nel sole, cammina nel sole. A pensarci c'è da perdersi. Tutti con la propria storia, un graffio dentro alla memoria, tutti sulla stessa strada. Ogni tanto c'è una sosta, a Las Vegas o un giro in giostra, ma poi vada come vada. Sole, walking away with me, brucia le suole fino a che, finché sulla strada profumo di viole c'è, cammina nel sole. Thank you. le suore fino a te. Finché Dio vuole, e profumo di viola c'è, cammina nel sole, cammina nel sole. Tu corri nel sole. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di nuovo insieme con questa ultima puntata stagionale dal mondo della scuola, con alcune studentesse del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso che hanno partecipato nel corso dell'anno scolastico ad una serie di progetti e iniziative. Poco fa con Maddalena si parlava del progetto Pace, che ha portato anche alcuni studenti, non solo di Treviso ma del Veneto in generale, ad un viaggio nell'est Europa. Tra chi ha partecipato a questo viaggio c'è un'altra studentessa che adesso si accomoda con noi, che è Elisa, sempre della classe terza CU. Benvenuta intanto. Grazie. Grazie ad Elisa. Allora, tu hai partecipato di persona a questo viaggio, che cosa puoi raccontarci? La cosa che mi ha particolarmente colpito di questo viaggio è stato il contatto con realtà molto diverse dalla nostra. Ho avuto modo di conoscere persone che hanno realmente bisogno. Speri di tornarci magari fra un po' di tempo? Certo, ho in programma di parteciparci anche l'anno prossimo. Bene, anche tu hai questa aspirazione, sì, che ovviamente non potrà accontentare tutti, chiaramente. Con te parliamo anche di un'altra esperienza. Avete fatto, mi è stato detto, insomma, ringrazio sempre la professoressa Marconato che vi accompagna, che avete fatto nel corso dell'anno un incontro sulla figura di Don Lorenzo Milani, sì, giusto? È venuto a raccontarci Monasta Gregorio, che è stato allievo di Don Milani, e lui ci ha permesso di conoscere questo grande maestro. Ci ha colpito la capacità di organizzare un percorso formativo così interessante. Lui faceva parte di una classe di studenti che inizialmente erano analfabeti e contadini e che comunque non avrebbero avuto nessuna possibilità di riuscire nella scuola pubblica. Gli allievi della scuola di Barbiana sono famosi anche perché hanno scritto lettera ad una professoressa, e questo è servito per reclamare l'istituzione scolastica a reinventare la sua funzione formativa. E appunto un detto famoso che si trova in questo libro è che la scuola non deve essere un ospedale che cura i sani e manda via i malati. È stato molto interessante appunto, e abbiamo ammirato molto la capacità di Don Milani di avere influito così positivamente nella società anche di oggi. Se tu dovessi, adesso ti manca un po' per finire la scuola ovviamente, giusto? Sì. Ecco, però se dovessi iniziare a scrivere qualcosa a una tua professoressa, o magari anche delle medie, o la maestra delle elementari, cosa ti verrebbe da scrivere? Cioè hai un ricordo positivo delle tue insegnanti degli anni passati? Perché queste ovviamente le stai incontrando in questi anni, però. Sì, sì, sì, sicuramente un ricordo positivo, ma anche ricordi negativi. E sì, secondo me la scuola deve essere affrontata in maniera positiva, sia dagli insegnanti che dagli alunni, e non deve essere comunque un obbligo. Deve essere un posto dove si va volentieri. Sì, dove si va volentieri, perché comunque è un luogo dove si va a imparare, non si va in un carcere. Tu ci vai volentieri? Sì, comunque vabbè, ci sono sempre difficoltà che però comunque dobbiamo essere consapevoli che ci aiutano a crescere, che servono per il futuro comunque. Questa era Elisa con la sua testimonianza su questo incontro su Don Milani. Un altro tema impegnativo, ma sono tutti temi importanti, ce lo presenta Benedetta. Benvenuta Benedetta. Grazie. Di cosa ci parli? Vi parlo di qualche incontro che abbiamo fatto sull'educazione e l'affettività, e dove abbiamo avuto la possibilità di confrontarci sul tema appunto dell'educazione affettiva. E abbiamo avuto due incontri con Suor Maristella e due fidanzati, Giacomo ed Anna, il quale è stato molto utile e interessante per la nostra formazione da questo punto di vista. Infatti abbiamo avuto modo di capire le differenze fondamentali che distinguono il genere femminile e quello maschile, e a questi fidanzati abbiamo posto diverse domande sul rapporto di coppia e diciamo ci hanno aiutato a sciogliere diversi dubbi che avevamo, anche se comunque il rapporto che loro hanno non è ancora, sì, il rapporto che non è il nostro rapporto che abbiamo adesso di coppia non è come quello di una coppia loro di 20, sono più grandi, di 25-30 ovviamente. Anni, esatto. Ecco, dicevi vi hanno sciolto alcuni dubbi, ad esempio? Le abbiamo chiesto molto sulla fiducia, sul rapporto di fiducia, e loro ci hanno confermato che comunque la fiducia è basilare in un rapporto, perché comunque se non si ha fiducia non ci sono le basi per avere un rapporto. Mm-hmm. E che la fiducia comunque non si conquista al primo giorno, ma col tempo ognuno impara a fidarsi sempre di più. Che vuol dire ad esempio non stare a chiedere continuamente dove sei, esatto, cosa stai facendo, esatto, oppure comunque lasciare delle libertà, perché comunque nella coppia non ci deve essere oppressione. Esatto. Mm-hmm. A proposito di questo, voi siete una classe tutta femminile, come generalmente è un po' tutta la vostra scuola. Appunto, vi manca un po' qualche maschio in più, non tanto per essere fidanzati, magari insomma non vi piacciono nemmeno. Beh, ad esempio io in prima facevo lo scientifico, per cui eravamo una classe mista, mentre in seconda ho cambiato indirizzo e sono andata nella mia classe attuale. E boh, ci sono secondo me differenze, nel senso allora molto spesso è positivo essere tutte femmine, ma a volte magari manca un po' la figura maschile, che anche per il divertimento oppure per l'essere troppo non dico chette, però un po' sì, ci vuole quel lato maschile che magari... che riequilibra un po' le cose. Esatto. Ecco, va bene, allora lo ritroverete in altri ambiti, magari come già ritrovati al di fuori anche della scuola. Allora, grazie anche a Benedetta, grazie ad Elisa, ultima pausa e poi altre due voci. Dal mondo della scuola. Mi depende a talk fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. Boom diggy diggy diggy bong diggy bong. Chinese and the Russian and the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazil. you look good, be the human to come true. Think about the way. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, che ritroveremo poi con l'inizio dell'anno scolastico, per quanto riguarda noi, dal mese di ottobre, come una volta cominciava la scuola, cominciava ad ottobre. Partiamo con altre due voci, Giulia ed Emily, che sono sempre del liceo Duca degli Abruzzi, ma Giulia di un'altra classe, di un altro indirizzo. Sì, la quarta B sociale. La quarta B sociale. Con te parliamo di varie cose, stage, volontariato, carcere, giornalino, insomma ne hai sì. tante da raccontare. Da sì, cosa partiamo? Allora partiamo con gli stage curricolari che abbiamo effettuato alla fine del primo quadrimestre nel periodo tra fine gennaio e febbraio, e sono durati tutti circa una settimana, chi più chi meno, e con il minimo di 25 ore settimanali. E niente, ci siamo interessati in vari ambiti, come quelli dei sindacati, delle associazioni o degli enti. Per esempio c'è chi è andato a Daycare, al telefono azzurro, oppure alla Domus Nostra, chi è all'asilo nido. Insomma, abbiamo avuto differenti esperienze, esatto. Questo appunto ci ha aiutato per capire come nel mondo del lavoro appunto ci sia una diversa modalità di relazione tra le persone, ma anche appunto tra la realtà che si vive. Ci ha aiutato a conoscere nuove realtà lavorative che ci hanno appunto interessato, per esempio quelle delle associazioni che non erano tanto conosciute magari. E niente, ci ha aiutato a scoprire come adattarci a queste situazioni e come vedere appunto un futuro che magari ci potrà interessare proprio in prima persona. Questo per quanto riguarda gli stage. E poi volontariato e carcere, c'è un progetto di cui abbiamo parlato anche altre volte in altri contesti, che è Voci di Dentro, Voci di Fuori. Anche sì. voi sì, abbiamo partecipato. Questo è un progetto che è stato iniziato insomma dal CSV, dal Centro di Servizi Volontariato, con altre 6 scuole. Il progetto è iniziato ad ottobre, con il quale appunto in classe abbiamo discusso su varie tematiche di inclusione ed esclusione, ma anche per esempio nella classe ci è stato di aiuto appunto per capire alcune nostre problematiche. E è stato molto interessante anche questo, perché ci ha fatto cambiare il nostro modo di vedere, perché come tutti sappiamo siamo condizionati dagli stereotipi che sono in noi, ma di natura. E quindi abbiamo preso più consapevolezza di queste realtà più difficili, perché abbiamo anche appunto magari appreso delle realtà in prima persona dei ragazzi dell'IPM. E si è concluso tutto il progetto con una festa finale alla quale insomma hanno partecipato tutte le scuole insieme ai ragazzi, e abbiamo esposto i vari lavori, abbiamo anche fatto dei video sulle varie tematiche che abbiamo affrontato nel percorso appunto di questo progetto. Avendo anche, credo, per alcuni di voi l'esperienza di entrare in carcere? Sì, solo diciamo una metà della classe entrava con i ragazzi per parlare appunto in prima persona, mentre in teoria dovrebbe essere entrata l'altra metà, però siamo entrati gli stessi nel nostro caso perché gli altri ragazzi non erano molto... Cioè, avevano anche un po' di timore ad entrare, quindi la festa l'abbiamo fatta sempre noi. Ok, e parallelamente a questo avete lavorato anche su un giornalino. Sì, io ho fatto proprio volontariato, è da 2 anni che entro in carcere una volta alla settimana. E niente, anche qui parliamo di tematiche importanti come il lavoro minorile, lo sfruttamento, anche la famiglia, l'origine e appunto... Questi giornalini escono, diciamo, con una frequenza di un mese e mezzo, e il giornalino si chiama Innocenti Evasioni. Ci sono vari articoli personali o anche di gruppo che affrontiamo con i ragazzi, e è stato molto, molto educativo anche questa esperienza, sì. Che continuerai. Sì, penso di sì, bisogna vedere in quinta se riesco a... Se i tempi esatto. degli esami e dello studio coinciderà. Grazie Giulia. Emily invece ci porta ad un altro ambito, ad esempio? Ad esempio quello dell'esperienza che abbiamo fatto con Libera. Ecco, questa associazione che quindi combatte, diciamo, contro le mafie. Abbiamo fatto 2 esperienze quest'anno, che è stato quello che hanno, diciamo, affrontato più una parte della mia classe, che è stato quello di andare a Firenze con un pullman, organizzato sempre dalla professoressa Marconato, questo. E praticamente sono andati a Firenze per proprio la giornata dove si ricordavano tutte le vittime delle mafie, che sono veramente tante, che vanno ad esempio dai magistrati Falcone e Borsellino fino ad altri, molti molti altri, insomma. Voi siete nate dopo quei fatti, quindi sì. non potete ricordare, evidentemente. E quindi questo è stato un incontro, avete avuto anche nel corso dell'anno alcune tappe di avvicinamento, oltre al giorno di Firenze. Sì, è stato infatti quella con la figlia dell'imprenditore Mauri, quindi con Roberta Mauri, l'imprenditore che si è suicidato a causa delle tangenti che gli creavano appunto dei problemi, perché non pagandole non gli permettevano di lavorare. Ecco, lui è stato molto, molto onesto, diciamo, e coerente con se stesso, infatti non le ha pagate e insomma ne ha avuto anche delle conseguenze. E questo poi alla fine l'ha portato al suicidio, purtroppo. C'è un altro ambito in cui tu con altri siete entrati, che è quello del commercio eco e solidale. Tra maggio e giugno si è svolta al Parco Sant'Artemio a Treviso la Fiera Quattro Passi. Come l'avete vissuta? Ecco, noi questa fiera l'abbiamo vissuta sempre nell'ambito, diciamo, scolastico. Siamo andati una mattina appunto di fine maggio in provincia, dove si teneva questa fiera, e abbiamo svolto delle attività con degli operatori. Ecco, questo ci ha permesso anche di capire molte cose, perché anche con magari una specie di giochi che abbiamo fatto abbiamo capito da dove vengono ad esempio le banane oppure il cacao, e questo ci ha aiutato molto a capire anche tutto un giro che c'è, perché poi la frutta, per esempio, che viene da paesi dall'altra parte del mondo costa così tanto. Quando noi ne abbiamo così tanta qui, magari, da mangiare. Prima ho visto una signora uscire con un frutto tipico veneto che è l'ananas, e non è proprio così, va bene, insomma, sui gusti non discutiamo. Il nostro tempo è finito, allora, tramite voi, Giulia ed Emily, facciamo in bocca al lupo a voi e alle vostre classi. Grazie, per questi esami e per il resto dell'estate. Ringraziamo la professoressa Marconato che vi ha ascoltato, Don Edmondo Lanciarotta che ha coordinato tutto il progetto di tutto l'anno della trasmissione, con la quale ci ritroveremo con la prossima stagione. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.